La poesia della Olga. Canzon. Al maestro Arturo Toscanini. Devotamente. De quel Nagot che fu, de quell'eterno Nagota che mi fu, numere belli, Olga, numere belli. Oh, vita andata, vita strascia de mi, viva l'inferno alleger della tua gent desculada. Dent in quel gran simenament de piatul e de scimes butalà come un roi ponse sul let di Troi. Oh, capavacca, oh, ti, Olga, d'Atra! A gran e aracul tirum a carità, che il sen puciaca il mund de prepotente de caguni, oh, ti, sapienta dona de coscienza, spua la tua sentenza, sì, cusini, omen, fera, fera, di cuioni. Rufian, rufian, rufian, ecco, cusini, omen. Olga, e don? I don, in vac, i don, vac e rufian. E ti, ah, sì, sì, sì, cosa son mi? Te ve savel, cosa te disen a ti? Prova, prova ciamaga al prin che ven. Le l'avvocat purchel. Sem sulla vedra al quindes, e che stem. Me senti in che el rebui della matana. Senti che se destana mo, dopo tanti an, la veia de cantà. Olga, Olga, Olga, Olga, cantem! Oh, piazza della vedra, oh, carampan de ca, oh, tanabus, buei, rater, oh, tusan della vita, oh, casutei vec de 50 gay alla minestra, in chi sepulcher, in chi scorpioner, spranga la porta, stopa alla finestra. Gera su de chi fiac, de brentadur, te tiravena a voltra de chi gamba, e la maîtresse al banc, quella sabesa, col fa de la vandera de culur. Gera la Carmen, gera la francesa. Bussaven de bel prima tutta posa e ciaculaven, ma de quindesina in quindesina che calava iari, all'oli della lum, all'aria posa, se padimaven in chi columbari. Cantem, Olga, cantem, de chi tusan antic, la grama sorta, l'ultem pas de quand in sul quacciars alla cabasa, là denter che invegiaven an e an, che marsciven la denter, tutta grassa ed acqua, sfacchinaven su e giò e su, col debet alla ca, incadenà alla ca come i baira alla terra. Talmen che in vers i do de mattina, più non sospiraven che debutas là sul lec, de restà là. Ma dalla piazza, ma dalla contrada le come una ventada che la spassa il vegium, quel desibili che alla cade la Olga e il temunta dalla piazza. Italia renascenta, le la granda scera franca di neger, di sacchetta, l'el susur di rucchetta, un mund peoca. Duce, duce! Quistin che te comanda, mediatur de Tusan, mercant de coca, el strill l'en su la porta. Viva il duce! mi come porc e ti come baldroca, con butega de fioca, un'uri, un'ura, Benito Mussolini, nostro duce, in sul purtun ghelem in tricolora, Italia renovada in di tovac, al par de l'avvocat, dell'ingegner se metten al mestè zelantemente. Olga, cosa ne trovum a pensag, tusan de portic e tusan d'ambient. E la cale moderna, scalde marmor, ruvera de slavogna, mes pastel, acqua calda, piastrel, ind la Gisela, urden, silenzi, ind la Virginia, arbor, ind l'atri, statu, una fontanella, macchina, quella ca. Tutto un quadrant de transatlantic, mirì e numerit, e tutti chi charit, che spunte in quella tusa, pisandes alla governante, quella tusa l'instanza o le de sala. La mera nota le anche mode sura. Adesso quando la vengo, diga la cia che è la compagnia del Bechel set. Sonega l'orelia, la falura, le chi duma de ier, le deprimet. La sa fa de mi. Libera? Passi? No, no, no, no, no, che il surle le dè per lui. Mettela al voto. Dan, daran, dan, Lucia, sota quel casinot, che sta la vegia stria, che fa balai pigot. Dan, daran, dan, Lucia. La Cicì, l'è malada, la può più fa chi basei di 30 volte al dì. L'è quasi in sul finì. I pe, la ga che ghes duluren, che tu categni su, alt, alla sera, per pudere quià. Sì, sì, sì, va ben, tu scos, l'è brava in stanza, l'è una tusa dura, ma la mia ca, digel ti, Maria, anche per lei, riva la notte e cusa la sevanza. Capisci a me? Se che fa male i pe, ma chi chinci? Le minga la bagina, uè! Chi trevalis? La ca del Budria? Mila? Ma cosa te diset? Mila lir? Do, do, te vengo in fera d'una quindesina. Domandegel del resto alla Totò. La cale buona. Lavora de buca, te vedare. Comincio manda giò la Cicì, la Totò, tra un gipunin e l'alter. Ghe. De quant? E no le tuca, tabù, tabù, che lì quel ritratin, col crim, tu de mem, fera i cassetti di mobil, questa per me l'è diventata stretta, e daghe la lanetta, a tra la via. Tusa de trivalis, dall'automobil, mancia la chega, basa la Maria, dan, daran, dan, Lucia, sota quel casinot, che sta la vegia stria, che fa balai pigot, dan, daran, dan, Lucia. Le desanche la gira, e che l'andada la pagnota alla povera Cicì. Intanto che il taxi rondò sempiun, puntacci, bastiun, e se mangia la strada. La marcale, la se smasuca, boom, che un quei cos la gavia. Anche in provincia dicen che è eresia. Chio là, basta de tira ca. Vare smurtara, lod, vigeven, e pesere comincia mo. Vare svigeven, lod, murtara, fina tant che la corsa le finida. In 250 cul bagali. Gunoi dolira, cali de moneda. Oi, serangen tut. In tutte della partita, tutte della lega, basta che il te veda vun e il te ciula. Olga, di sulla tua, vacca te se, e come vacca andem a lodda al Budria, andem. Oh, la campagna che passa, i pra. L'era una sua vita, forse, la vita de campagna. Tusa de Trucassan, alle de feu. Ma l'han lugada i suoi in spallanzani, in del patrum del trani. Un sparge, un pom. Sguira butelli, brasciura fiui, servetta in roche in sui basè del dom. Nanca il parlà. Un mea pa. La fava. E cosa che successe quella mattina? L'aga in mente una tina. Come ciuca di quel furtur del vin che travasava. Una faccia la ved e quella buca e do champ che la imbraghen in vida strepenenta una nivola quel dì e la se treva lì e sbalada sulla pe la spedida in disso gente manzida quando la presumada il vecchio che la fiola oh mamma no pa una cadrega Cristo d'un sacramento fei vac de camia. Dan, daran, dan, Lucia, sota quel casinot, che sta la vegia stria, che fa balai pigot. Dan, daran, dan, Lucia. La catasciada il gamba. E te la porta a ti, Olga, per colugala. In che, ah, se Dio veri in che, la ga una scagna de pudè se tasgiò, le stracca morta, e questa le una ca dove se magna e se dorma. In saleta la se pisura. Sul pugiurin, ande malaria, sì. Crede che ai omenti, pes della rogna. Che mariettina fina, los dell'isola, te vist, e il tengurga la fogna. Amor platonec del mercant de vin. Manco l'esculta. Al de là della piazza, quanti fiè. Ciassa de sus facciada, intan che ghe preparen un balin cusina, la te la resumada. Mattina, mo, come un'altra volta, in pele treva, e prunta l'opra, la padruna, la tas e la dragona. In due tuken spurken sti malarbeti putanè, i sciuri, pissen, caghen, furken, Var del chistul in sé, vuoi che t'impare ta viv, a ti rascià la fin del mes, un farloc de paese, un tabarlan come te se, le mei che te se spare, dai! E il post di snà le passa tra il divà e la finestra. E niente per le, na godde fa, la munda la latuga, dopo la giuga con tel valterin. Bisogna desgaggiarla, te fare il Gabriele per l'avvocatin. Culeni di Gandit, che è una lettera per lei che deve arrivà, che l'è già in strada, quando la sarà arrivata, l'andarà. Com'è? Le chi ancamò? Ah sì, la lettera. Se non arriva, a se per m'ingannà, e specium. In saletta c'è un'alzada de veder, la rigui, i letterin, i cartulin, i talunit di vaglia, i bigliettit de tutta la passada di sottusan che giren per l'Italia, e scriven alla Olga e la saluden, Firenze, piazza della signoria, un bacio alla CIA, Susi, Pisa Lungarno. Oh bel, chi l'è la Susi? Mi deni nom, come se fa? Quella Barbisa, te se ricorda no, quella cu de brocul, che era chi sotto Natal. December. Arriva già December e la Olga l'è come sempre sul palet del Rocul, fermo. Quel scighettun de quella Olga e come sempre in la basileta de quell'alzada raspa cartulin e letterin e talunit de vaglia de tutta la passada, l'invulada di Sotusan che giren per l'Italia e seba Pasqua in settimana santa la Cicilia returna da Triesta. Chi disarisca questa le latusa d'un temp? La se pavana, la se incanta, la se cucchetta al spec come la spusa bella. La pudarisa veg in banca un concurrent qui sot travel shacks. Se non fus per quel bec che la sperliuscia. E il gamba. E il gamba. Lui. Alla palanca il mira. Aiori e mingati, bauscia. La guarda in stra. Gutina. Oi tambur, parli con te. La fa una ridatina. La ghe canterellina su. La met la cloche. E il trench. Più visna. Tappe bur. Saluto al milio. Rasa de servette, te che cavet un'ostia. Polda, brava, ti. Un salto a te una macchina, dai. Saluto al barba. Middle cu, Tarluc. L'endada. E sema lui. La piazza. La se sbava alla caldana e vu che impulunada te la deughet la Olga col facciun pucià in la mesluna dell'inguria. Oh, mes della goduria, la pimpina la triunfa in Liguria. A istasium balnear la porte, na curtina, a sulde in atrafoi, tusan, tusan, piantenicà. Non resta qui metres che chi papa de gest de feraus, chi pampa luga vec, sciurin, tusan, dall'albenga all'ardenza, al sul d'agust. Una fera, un'immensa passerera, tusan, sciurin, le tutto una mesciaia sola, un tras in pataia alla serena, un rid alla bagaia, la bandera le dell'Olga che impera. L'è la crena in tripudi che bui, che se desbria in l'ultima allegria. Dan, daran, dan, Lucia, sota quel casinot, che sta la vegia stria, che fa balai pigot. Del mondo che se sputana la ruversa, la se scandala la galanta donna, dal suo bus le spiona. I segni, la giubela, la ghigna, la se inversa, la tira giò madon, la sceppa i legni, imbestiata in della corridura stretta tra la stramesa e la stueta. Utuni, utuni, udur di pan che suga, un'ora, do, e dopo un'altra ora, mo, ed ura in ura, tempo in fuga. Utuni, primavera, està, e inverna, l'imperadura della fuinera, Olga, Madame Carnera, invegiunida la trevi che la sentardia, la decerna e il funde la sua opera finida. E la Polda le a Roma, in sul casot, e la Lola le a Bari, in sul casot, e la Cicile a Bressa, in sul casot, e la Susi la incrusa, in sul casot, la Totò che la turna dal casot. E ca, e don, e ca, per quan la gira l'oeuc, oltre non la ved, d'inturno via. Dan, daran, dan, Lucia. Sota quel casinot, che sta la vegia stria. Piangiulenta vien giò quella campana sulla sira. Vespera San Liurens. Vinché le senta, el disaria che quella campana la piange addossa una giornata inutil. Ranchi e me vuti. Oh, come se stenta viv, le malinconega, le grama la vedra prima che la se indurmenta. Questa le lura della puveraia, di barbum della mura, di gavet de sboba, di veget, e la metenta vuna de stidunet che se sparpaia. Vespera sonnosor. La sciuramenta. In nomine patris. La mente amata. Et filii. Et spiritui. De Basel sancti amen. In Basel la vegia stria della Bain la sarà incalagata la me vincurt. Dan daran dan Lucia. Armada de spurtine d'umbrelin. Vespera Sant'Antoni. La tuntogna, la tupica, la rogna. Utunu. Negozio consorziato. Culmanin. U già. La scansa i fieu. Ad avial qui, manovra! La mia man, sun sulla mia man. Traversa, straluster, la traversa, e le de là, la stersa in Zebedia. Aghe una purtina falsa in Zebedia, che te se incorge in manche che la ghe sia. Le una purtina piccola in del mur della gesa, di volt ai funerai la derven, quasi mai. In archetada, la vegetina, in gruppo. Tra il ciare scur, le lì, contra quella porta sarada. Ben fera, cul didin. Che te sedenter, ben fera. Ai suterani, la te porta sota a una sorta di deposit. Fera, ben fera, che il suben che te sedenter. I catafalc di mort che giò. Ben fera. I candelaber. Fera! Tutta un bot quella parola della mucetina de pagn alla purtina. La da gent, la tira gent in gir, che se fan sot. Ven fera! I scaldi paradurghe dent, i paramente de mort, i cas de mort, neger, li sta in argent. Alla Mariana, daghela la Mariana! Un bagaiotto in spicciola, Mariana. Un om qui scorb, la rebutonen, ghinados, incrot. La salta in pe, sgavascen. La strieta, la sgurata, la sbat. Ah, la Mariana, la fava, la puttana. Vigliacchi, vigliacchi. A quella bicicletta, dai, dai, dai. Sì, sì, sì, la crapa, sì, la crapa, l'ombrellente spacchi, stupid. Che strepe in la borsetta. Mariana, farà buti. E il velet, la se strapada. La se repara in della portinara. La se intana in della porta in faccia. Mariana, Mariana, vigliacchi. L'è morta la Mariana, morta mi son lamenta. Oh sure, il vet cosa man fa? E su tanin, ma scinca l'ombrellin bardasi. Ami, ami, mi della puttana, ami, che me dove venda in castel, i mestans, che me venieven, oh sure sì, e sunt andada, e non vore vendami, e mantra in dres, laccia, per sbattum, su una strada, una carta bulada, oh, una carta bulada. La sedessa, intan la secavesa, e cui ugit la gussa inturna, più nisunghe lì. In andà via tuc. Le riscia in strada, la va, i prei, cugini praga, i prei, la va, ting ting, ting ting, spurtina della spesa, veletin, dundignand, tuntugnand, tac al mur della gesa. Di Delio Tessa, la poesia della Olga, in pubblico dominio. Voce di Annibale Covini Gerolamo. Creative Commons 4.0 International. BY NC ND.